amori come economie, risparmiando errori casuali. Obbedisco a tutte le tue fantasie, anche quando vorrei dirti no. Mi stupisco delle lamentele che mi rivolgi senza una ragione. Non capisco quando mi ripeti che io non cresco come Peter Pan di nascosto. So i miei punti deboli, ma non posso essere un eroe. Di nascosto da me stesso, io ti ho chiesto solo questo. Sai che mai io non mi permetterei di poterti contraddire, ma puoi da noi dirmi che cos'altro vuoi. Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria, una tappa della musica di domani. E oggi sulle nostre frequenze di Radio Città Fuscico 103.1, nel nostro programma Fermata Provvisoria, abbiamo come ospite Francesco Moscardi, in arte Moscardi. L'artista nasce l'11 marzo del 1994 a Cagli e fin da piccolo prende lezioni di solfeggio, ritmica e suona nella banda del paese, per poi arrivare all'armonia e allo studio delle percussioni. Cresciuto attingendo sia alla tradizione del cantautorato italiano, grazie al padre musicista per passione, sia da quello dei songwriter stranieri, preferiti dalla madre, si innamora artisticamente di James Taylor e inizia così a suonare la chitarra acustica da autodidatta e successivamente a comporre le prime canzoni. Dopo essersi diplomato in batteria e percussioni nel 2017 a Roma Contemporary Music College, vince nello stesso anno una borsa di studio per il CET di Mogol, frequentando così il corso di composizione con il maestro Giuseppe Barbera. Nel 2019 vince un altro premio, Premio Nazionale delle Arti, sezione musiche pop e rock originali, indetto tra i conservatori di tutta Italia, aggiudicandosi inoltre una borsa di studio per frequentare nuovamente il CET di Mogol. Sempre nello stesso anno, nel 2019, si laurea al triennio di composizione pop rock presso il Conservatorio di Pescara. Durante gli studi al Conservatorio incontra Pier Francesco Speziale e Umberto Matera e insieme a loro fonda l'etichetta Aesugo Records e pubblica i suoi primi tre singoli, Gli Eroi, Fidati di Me and Happiness. Proprio con Aesugo Records realizza il suo EP di debutto intitolato Rosso Moscardi, distribuito da Artist First. un album stracolmo di ricordi autobiografici e musicali interconnessi tra loro da sonorità innanzitutto pop, melodiche, acustiche e canzoni così, immagini impreziosite dalla tenerezza di un bambino e dall'amore di un uomo. Prima di intervistare l'artista ascoltiamo un pezzo estratto da suo ultimo EP, Rosso Moscardi, chiamato Prezioso. Prezioso è tutto ciò che hai, non quello che desideri, prezioso è chi non ti dice sempre sì. Per ogni errore che farai, per tutti quei discorsi inutili, prezioso è chi non vuole perderti. Ti perdonerò se non vorrai rispondermi, almeno ascoltami. Ti voglio solo dire che non meriti di piangere, non meriti nessuno al mondo che ti faccia stare male, e scusa per le lacrime che bagnano le lettere, è solo la paura di lasciarti qui e poi di perderti. Correndo non ti accorgi mai quanto è prezioso un solo attimo, in un saluto può nascondersi un addio. E chissà quando capirai che un sentimento timido è più prezioso di un diamante unico. Ti perdonerò se non vorrai rispondermi, almeno credimi. Ti voglio solo dire che non meriti di piangere, non meriti nessuno al mondo che ti faccia stare male, e scusa per le lacrime che bagnano le lettere, è solo la paura di lasciarti qui e poi di perderti. Ti perdonerò se non vorrai rispondermi, se vuoi difenditi, questo è tutto ciò che volevo scriverti. E dirti solamente che non meriti di piangere, non meriti nessuno al mondo che ti faccia stare male, e scusa per le lacrime, non smettono di scendere, è solo che sapevo di lasciarti qui e poi di perderti. Abbiamo ascoltato Prezioso, un brano estratto dall'ultimo album di Moscardi dal titolo Rosso Moscardi, e diamo il benvenuto all'artista. Ciao Francesco, come stai? Ciao, sto bene, e anche se ho un periodo un po' di stallo e di crisi generale, approfitto per creare e dare sfogo ai miei interessi musicali. La musica aiuta molto, poi sublima in certi momenti. Insomma, è il periodo che è gravato su tutti voi artisti, giustamente, causato dall'emergenza sanitaria. Quanto ti ha aiutato la musica e quanto pensi che la musica possa aiutare le persone? Aiuta molto, perché innanzitutto tiene compagnia in un momento in cui siamo isolati proprio fisicamente e non possiamo vederci l'un l'altro, e poi perché crea un ponte, diciamo, attraverso l'immaginazione creata, è un ponte per vedere le cose non solo dalla prospettiva di come sono, ma anche di come potrebbero essere e di come spero che saranno. sì, ci sarà sempre. Tu hai comunque una prospettiva positiva e grazie ai tuoi canzoni riesci a trasmettere questa felicità, ecco, perché ascoltato i tuoi pezzi sono molto, che trasmettono proprio queste sensazioni. Come ho detto, leggendo la tua biografia, la tua storia nasce proprio, nasci come percussionista e successivamente ti appassioni al cantautorato italiano e poi ai songwriter stranieri. Ci racconti brevemente come è iniziato tutto? È iniziato, diciamo, il fatto che di essere nato in una famiglia, in un ambiente dove la musica ha sempre ricoperto un ruolo centrale, quindi ho avuto sempre degli strumenti che mi circondavano, mio padre scriveva canzoni, quindi questa cosa mi ha sempre influito molto nella mia crescita. E in particolare mi sono avvicinato allo studio della batteria, in primis batteria e percussioni, diplomandomi a Roma, alla Roma Contemporary Music College, e poi diciamo che ho virato e ho cominciato a scrivere canzoni durante il liceo, appunto appassionandomi soprattutto ai songwriter stranieri, ma anche ai cantatori italiani, soprattutto per la parte dei testi, delle storie che raccontavano, e da lì poi ho deciso di intraprendere, dopo diciamo la prima esperienza universitaria in cui ho fatto sia l'università sia appunto questa accademia di batterie e percussioni, ho deciso di intraprendere solo la strada della scrittura di canzoni, del cantautorato e della composizione in generale. Fondamentale, insomma, questa tua formazione. Infatti poi hai partecipato nel 2017, anzi hai vinto una borsa di studio per il CET, la scuola di Mogol, frequentando poi il corso di composizione con Giuseppe Barbera. Sì, è stata un'esperienza veramente illuminante, è stato un bivio fondamentale, insomma, per la mia crescita personale, oserei dire, anche ovviamente artistica, perché mi ha dato stare a contatto con quel tipo di professionisti, Barbera, ma lo stesso Anastasi che cura il corso autori, e Mogol, insomma, che non ha bisogno di presentazioni. E questa esperienza mi ha dato tanti elementi, oltre che umani, ma soprattutto tecnici, per far fronte a dei limiti di natura appunto tecnica legata alla musica, agli strumenti, alla composizione, che mi hanno aiutato banalmente a esprimere meglio me stesso, ecco. Sicuramente. Poi successivamente, comunque, tu hai un curriculum di tutto rispetto. Nel 2019 ti sei laureato presso il Conservatorio di Pescara e da lì hai fatto un incontro fatale, no? Che ha cambiato il destino, che ha rivoluzionato. Hai incontrato Pier Francesco Speziale e Umberto Matera. Allora, ti dico innanzitutto che comunque il Conservatorio di Pescara è quello. Io sono arrivato da Roma, no? Dopo l'università e l'accademia di cui parlavamo, sono arrivato a Pescara perché c'era l'unico corso in Italia di composizione pop rock, e quello mi ha permesso di andare al CET di Mogol e di incontrare Pier Francesco e Umberto, con cui abbiamo fondato l'etichetta iSugo Records e con cui nello specifico io ho trovato veramente il mio profilo artistico, no? Lo stile che cercavo da anni. E quindi da un lato Pier Francesco, che in veste di produttore e arrangiatore ha saputo dare veramente forma alle mie idee e dare un suono a quelle che prima erano delle canzoni voce e chitarra, e dall'altro Umberto, che ha saputo trasformare queste idee in progetti veri e propri, e quindi mi ha aiutato nello strutturare diciamo l'artista che spero di cominciare adesso, ecco. Beh, lo stai dimostrando veramente. Io ti posso dire che siamo veramente felici di poterti ospitare nella nostra trasmissione. Ricordiamo che siamo in compagnia con Moscardi, un artista che attualmente seguendo il suo ultimo EP chiamato Rosso Moscardi. Insieme a questa collaborazione, come hai detto tu, come lo definiresti questo album? Ma lo definisco sicuramente un album di ricordi come prima cosa, ma è immediata questa definizione, e basti vedere la mia, diciamo, la scelta nostra di avere collegato a ogni canzone una fotografia, viene da piccolo, dei piccoli video filmati ormai dell'epoca, quindi questa è la prima definizione, un album di ricordi. Però ti dico che lavorandoci, definendolo, strutturandolo, organizzandolo, ho proprio capito che questo era un viaggio, un flusso di coscienza, ecco, quindi un viaggio dentro me stesso, mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto riordinare le mille esperienze, le mille persone incontrate, le storie che avevo vissuto. E quindi è stata un'opportunità anche per conoscermi e consolidarmi meglio, ecco, come persona, ancora prima che come artista. Qui ricordiamo un album di ricordi autobiografici e musicali interconnessi. C'è una frase che è stata scritta per descrivere il tuo EP, è quella che tra loro dà sonorità pop, melodiche, acustiche, canzoni, immagini impreziosite dalla tenerezza di un bambino e dall'amore di un uomo. Questa è la definizione di Rosso Moscardi. A me ha affascinato molto questa frase, tu l'hai descritta, per cui insomma, se vuoi definire altri aspetti. Su questo vorrei più che definire altri aspetti, perché questa frase, come dici tu, parla da sola. Vorrei solo rendere omaggio e dire grazie a Annalisa Senatore, che è la ragazza dell'ufficio stampa che ha curato tutta la promozione dell'EP e che veramente gioca con le parole, ma in una maniera, con una profondità unica. E quindi voglio solo dire grazie a lei per avermi anche fatto scoprire un lato di Rosso Moscardi che magari non avevo compreso fino in fondo, e invece che c'è. Assolutamente, l'abbiamo riscontrato, e poi insomma faremo ascoltare il tuo ultimo album anche ai nostri ascoltatori, che molto probabilmente apprezzeranno. E invece, quali sono i tuoi progetti futuri all'interno dell'etichetta Exudo Records? So che anche sei un cofondatore. Esatto, sicuramente andrò avanti con il mio percorso artistico. Questa è una tappa fondamentale, perché è quella di debutto, ma è solo la prima. Quindi già abbiamo in cantiere, diciamo, i lavori per la seconda tappa, che vedremo come e quando prenderà forma. Per quanto riguarda l'etichetta, in qualità, diciamo, di cofondatore, penso che il prossimo periodo sarà un periodo di apertura, di contaminazione con altre esperienze, con altri artisti. Già gli artisti che ne fanno parte usciranno con dei loro lavori anche più completi, non solo con i singoli ma anche con delle raccolte. Quindi mi immagino, ecco, un periodo di nuove sorprese, di esperienze, di incontri che consolideranno questa etichetta e la renderanno, spero, unica nel suo piccolo. Beh, sarà sicuramente così, almeno noi te l'auguriamo fortemente, Francesco. E siamo arrivati alla fine, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, innanzitutto. E ricordiamo che è uscito il 6 novembre il tuo album Rosso Moscardi. Noi ti salutiamo, Francesco, è stato veramente un piacere. Grazie mille, il piacere è stato mio, e buona fortuna anche a voi e buon lavoro. E adesso ascoltiamo Fidati di me, un brano estratto dall'album Rosso Moscardi. Riconoscere il tuo respiro in mezzo a mille temporali e ritrovere i tuoi occhi tra milioni di occhi uguali, anche se mangiassi tutto il giorno dentifricio. Mi ricorderei il sapore del tuo primo bacio, come di un mosaico io conosco i tuoi tasselli. So persino dirti quanti sono i tuoi capelli, anche se ti può sembrare strano e non ci credi. So quanti chilometri ci sono nei tuoi piedi, e se provassi a disegnare al buio il tuo sorriso, per la prima volta in vita mia sarei preciso. E se mi facessero il lavaggio del cervello, non mi scorderei comunque di quanto era bello fare tardi al mare. Fidati di me, mezzo a mille temporali e ritroverei i tuoi occhi tra milioni di occhi uguali, anche se mangiassi tutto il giorno dentifricio. Mi ricorderei il sapore del tuo primo bacio, e se non ti fidi mi puoi mettere alla prova. Mi ricordo ancora l'8 luglio che pioveva, che col vento forte s'era rotto anche l'ombrello, ma che ci piaceva troppo nonostante quello. Fare tardi al mare, stare ore ed ore tra noi e le mille scuse per giustificarti con i tuoi. Non ti preoccupare che non ci scopriranno mai. Sorridevo quando mi dicevi fidati di me. Forza per la rabbia, ho cercato a lungo il nostro splendido castello, ma non è rimasto neanche un misero granello. Fare tardi al mare, baby.